amo la radio perché arriva dalla. Se rinasco, rinasco Cipolla, perché mi sembra che sia perfetta. C'è stato un licenziamento per giusta causa perché ho rubato, diciamo, dalla mensa aziendale, non è il caso di raccontarlo. Vabbè, ma se erano i cracker, falasca. Poi è noi donne che abbiamo le nostre borse di Mary Poppins dove dentro ci possiamo mettere tante. Posso mettere anche il fruttarolo dentro la mia borsa. Lo porto a casa. Sì, esatto, anch'io non ho un udito perfetto. Mm-hmm. Riesco a sentire comunque Radio 24. Bravo. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi. E gira che ti rigira, dopo la puntatina settimana scorsa a Bologna, eccoci qua, siamo arrivate a Genova, cara Nicoletta, siamo molto contente, vero? Assolutamente sì. Di aver portato Cuore e Denari anche qui al 54esimo Salone Nautico Internazionale, la manifestazione nautica più importante del Mediterraneo. E allora, come sempre, invitiamo anche i nostri amici a venirti a trovare, per chi fosse da questa parte, siamo allo stand S, ecco, hanno dovuto proprio prendere questa lettera e tu? Metterti alla prova, ecco. Però lei hai superato, ripeto, l'esame. No, perché così rimane più impressa S47. E le cerchi, lo vedi? Ecco, un'altra trasferta per Cuore Denari. Anche oggi ci ospita una rassegna molto interessante, un settore molto vivace, molto qualificato, un settore d'eccellenza, come dici spesso tu, Deborah, è vero, dell'industria italiana. Eh sì, è quella di quest'anno, è decisamente un'edizione ricca di novità. Vengono messi in mostra intanto gli ultimi modelli dell'industria nautica e si possono persino fare delle prove in acqua delle imbarcazioni, però sono in programma anche convegni con approfondimenti economici di grande attualità. Il tema di cui si discute maggiormente è quello relativo alla fiscalità del settore, ma c'è anche grande attenzione a ciò che offre questo comparto in termini occupazionali, visto che il settore soffre, come ci hanno raccontato, anche di quel fenomeno che è l'invecchiamento del diportista. Cercheremo anche di capire di che cosa si tratta e, siccome l'occupazione ci sta molto a cuore, oggi dedicheremo uno spazio a questo tema per dare suggerimenti utili a chi ci ascolta. Che professioni sono richieste in questo campo, dove ci si forma e dove ci si informa. Ma non ci fermeremo qui, perché anche il mare, che ci piace così tanto, noi, Nicoletta, lo osserviamo anche dal punto di vista del cuore. E sì, nella seconda parte della trasmissione parleremo di iodio. È un elemento prezioso per la nostra salute, indispensabile per il corretto funzionamento della tiroide, quella piccola ghiandola a forma di farfalla che regola e tiene sotto controllo un'infinità di cose, ne abbiamo parlato tante volte: il peso, il battito cardiaco, il livello di colesterolo, la forza dei nostri muscoli, il benessere della pelle e dei capelli, non ho finito, la vista, anche il ritmo del ciclo mestruale, l'umore e tanto altro. Insomma, il nostro organismo non è in grado di produrlo da solo, se lo deve procurare attraverso la dieta. Niente di più facile, sembrerebbe, e di più piacevole, ma evidentemente, Deborah, qualcosa non torna se nel nostro paese si registra una carenza di questo minerale ancora molto diffusa, e non solo nelle zone montane, ma anche in quelle costiere. Però il problema è serio, perché un'assunzione insufficiente di iodio può provocare gravi deficit cognitivi e psicomotori. Tutto questo può essere facilmente evitato con un pizzico, e non uso questo termine a caso, indovinate perché, di informazione, diciamo così, in più. E questo è anche l'invito e l'impegno degli esperti della Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, che lanciano una bellissima campagna, si chiama Progetto Italiano contro la carenza di iodio in pediatria, di cui parleremo proprio nella seconda parte della trasmissione con un esperto che arriva proprio da Genova. Ottimo, per tutti questi argomenti allora 800 24 00 24 mettete subito mano alla cornetta. Ogni ragazza sogna un marinaio tutto per lei, che pensi solo a lei, ma il marinaio sogna. Giocare un po'. con Little Tony, ma era perfetto, eh? Era perfetto, come tutte le colonne sonore d'accompagnamento al nostro programma che scelgono Laura Vanossi e Marco Lombardo. Allora, noi oggi a Cuore Denari però non vi facciamo promesse da marinaio, vogliamo al contrario darvi consigli e indicazioni concrete, scattando una fotografia di un settore molto importante dal punto di vista dell'industria e delle opportunità di occupazione. Allora, buongiorno e benvenuto nei nostri studi mobili. Nautici. Nautici, se vogliamo, anche perché siamo proprio vicini al mare. L'ingegner, certo, Stefano Pagani, dell'ufficio studi di Ucina, Confindustria Nautica, che è l'associazione che rappresenta le industrie e le imprese della nautica da diporto e che è ospite della prima parte del nostro programma. Benvenuto. Buongiorno a tutti gli ascoltatori qui dal Salone Nautico di Genova. Benissimo. Una bellissima manifestazione. Sì, adesso sistemiamo un pochino il microfono, lo alziamo un po'. Allora, ribadisco, 800 24 00 24, il numero verde che oggi, se vogliono, potranno comporre, dovranno comporre tutte quelle famiglie in cui c'è qualcuno che sta cercando lavoro, che si tratti di voi, di vostro figlio, di vostro genero. Vi chiediamo se avete mai preso in considerazione le professioni legate al mare o se le conoscete, però ci rivolgiamo anche a chi già svolge una professione di questo tipo, in questo settore. Quali sono le opportunità che avete cercato e anche le difficoltà in cui siete incappati appunto nel vostro cammino e le opportunità più interessanti. Allora, 800 24 00 24, un numero verde che è sempre a vostra disposizione. Intanto rinnoviamo, ci sono già degli amici che ci sono venuti a trovare. Ma ingegner Pagani, quali sono le professioni del mare? Alcune no, ci vengono in mente, abbiamo sentito Little Tony, no? Il marinaio che ha una bella in ogni porto. Ma effettivamente le professioni della nautica non sono quelle classiche che uno immagina, quindi solo marinaio, professioni marittime. La nautica è una delle filiere più ampie di tutti i settori produttivi, forse anche più di quella dell'automotive. Mm-hmm. Infatti in una barca si associa la complessità del mezzo di trasporto con gli arredi interni, certo, oppure il turismo nautico, tutti i servizi necessari per gestire un'imbarcazione e navigare. Insomma, è un mondo a 360 gradi che accomuna le più svariate professioni, mm-hmm, dal mastro d'ascia all'ingegnere della fluidodinamica, all'avvocato specialista nelle questioni legali marittime, i broker, gli skipper, i cuochi. Che cosa fa il broker del settore nautico? Ma il broker... Io mi occupo di finanza tutto il giorno e ne ho un'immagine molto diversa. Tendenzialmente nella fascia alta della nautica, quindi quella dei super yacht, quindi barche importanti dai 24-30 metri in su, il broker è quello che cerca di vendere le imbarcazioni e di noleggiarle, quindi con il sistema del charter. Quindi insomma è un mestiere abbastanza complicato, certo, e ovviamente destinato a una clientela molto top, diciamo, top. Però, top di gamma. Ricordiamoci che la nautica, come si può vedere anche qui dal salone, è anche una nautica di accesso semplice. Insomma, ci sono delle piccole barche che non sono dalla deriva alla canoa, fino ad arrivare alle piccole barche cabinate, e poi piano piano crescendo si arriva fino alle barche molto grandi. Ci ha fatto lei un elenco appunto delle professionalità legate al settore nautico. Noi con appunto i nostri assistenti al programma ci eravamo un po' sbizzarriti anche ad individuare un possibile elenco di professionalità. In realtà poi abbiamo scoperto che avevamo individuato un elenco solo... che non apparteneva al vostro settore esattamente, no? Per esempio il mozzo, il tanchista, lo stippettaio, il primo nostromo e il nostromo tradizionale normale, sono invece professioni che sono professioni più marittime, ecco. Però è chiaro che questo anche è il giovanotto dei... di coperta, esatto, quello può essere mi piaceva molto c'è anche l'ottonaio, se proprio vuoi saperla tutta, eh. Comunque ricordiamoci che la nautica, intesa come nautica industria più turismo, è interessante sapere che è uno dei settori con il più elevato moltiplicatore occupazionale. Cosa vuol dire? Significa che per ogni un nuovo addetto diretto nell'industria si generano circa 6 nuovi addetti in tutto quello che è l'indotto. Quindi cerchiamo di investire sulla nautica, è un settore magari di nicchia ma molto importante per la nostra economia, specialmente per una nazione come l'Italia che è una penisola in mezzo al Mediterraneo. Un tantino di mare, come dire, attorno, ecco. Ingegner Pagani, poi sulle professioni appunto legate al settore nautico torneremo magari grazie alle domande dei nostri ascoltatori. Volevo però un attimo soffermarmi anche alle tematiche che vengono affrontate nell'ambito di questo salone, che è molto ricco di eventi. C'è anche un ministro stamattina che gira tra uno stand e l'altro. Siamo in crisi economica, magari magari per chi ci ascolta può anche essere un po', come dire, un atteggiamento che disturba il sentir parlare di imbarcazioni, e così ci si immagina un po' che sia un settore solamente ad appannaggio di grandi portafogli e di una determinata, appunto, ricchezza. E invece, se guardiamo all'Italia, questo è un comparto che per esempio esporta moltissimo, abbiamo una tecnologia decisamente molto apprezzata all'estero, e parlando dell'economia domestica, proprio un anno fa il Consiglio dei Ministri ha ridotto la cosiddetta tassa sul lusso che era stata introdotta dal governo Monti sulle imbarcazioni. Che cosa ha significato per voi aver ridimensionato questa tassa? Sfatiamo subito l'equazione classica che sentiamo da alcuni anni: nautica uguale lusso. La piccola nautica, come dicevo, qua è ben rappresentata al nostro salone. Venite a vedere come si possa accedere in maniera semplice, con pochi soldi, anche solo a una piccola barca, e iniziare ad avere la passione per il mare, che poi vi porterà molto avanti. In cambio avrete grandissime soddisfazioni da navigare. Passando invece alla domanda sulla crisi del settore, effettivamente il settore nautico in Italia ha perso dal 2008 a oggi circa il 60% del fatturato e il 50% di addetti. Oggi rappresentiamo circa 2,4 miliardi di euro di fatturato, però il problema non è tanto questo, perché come diceva lei il settore esporta molto. Il problema è che in Italia ormai non si vendono quasi più barche. Abbiamo azzerato quasi la vendita. Non si di vendono unità in Italia sul mercato domestico. Sul mercato, certo, domestico. Questo purtroppo è anche una causa determinata da scelte politiche miopi. Una di queste è proprio la tassa Monti, che ha letteralmente azzoppato il nostro settore. Tra l'altro l'effetto peggiore è avvenuto con la comunicazione di questa tassa, perché era stata comunicata in una fase di bozza come una tassa, diciamo, di stazionamento, che vuol dire passo nelle acque italiane e devo pagare giornalmente. Questo cosa come il pedaggio dell'autostrada. Quindi questo cosa significa? Che tutti i turisti che arrivavano anche dall'estero sono subito scappati. Noi abbiamo avuto per 4 anni i mari deserti per colpa di un annuncio che poi peraltro non è nemmeno stato concretizzato, nel senso che poi la tassa è stata una tassa, certo, di possesso. Questo mi ricorda un po' un altro tema che esperti affrontiamo in spesso. Autogol. A cuore denari, il tema della tassazione sulle rendite finanziarie, la tassa sul risparmio, come se tutti in Italia fossero dei grandi speculatori, investissero grandi patrimoni, facessero trading di quelli, no, come dire, proprio che sono solo ed esclusivamente ad appallaggio, appunto, di traders professionisti. E invece non è così, quindi qualche volta ci sono un po' di confusioni. In questo momento abbiamo, per fortuna, questa stagione è andata un po' meglio delle ultime, però abbiamo ancora i porti letteralmente vuoti. La Croazia, il Montenegro, la Francia sono stati ben felici di questa tassa di Monti, perché hanno avuto tantissimo incoming dall'Italia. Giusto un numero per farvi capire l'importanza del turismo nautico: una persona che scende da una barca, dalla più piccola alla più grande, dà come indotto, scendendo solo e spendendo, dai 40 ai 400 euro al giorno, solo come spesa, scendendo dalla barca. Certo, e insomma non possiamo capire quanto sia importante, quanto abbiamo perso. Esatto, e prendersi cura di questo comparto. Un'altra novità fiscale, ce la deve un po' decifrare a beneficio dei nostri ascoltatori, ingegner Pagani. Nel decreto Sblocca Italia invece il governo ha equiparato i marina resort alle strutture ricettive all'aria aperta. Che cosa vuol dire? Ma è un po' complicato, infatti, detto così. Io le potrei rispondere: l'importanza del turismo nautico è proprio questa, cerchiamo di valorizzare e semplificare le cose. Oggi chi arriva con una barca in un settore di transito di un porto turistico paga l'IVA al 22%. Questo perché? Perché le porzioni dei porti turistici destinate al transito non sono valorizzate come strutture che fanno accoglienza turistica. Con questo nuovo provvedimento effettivamente le abbiamo equiparate, quindi in questo modo si può applicare l'IVA ridotta destinata ai servizi turistici esattamente come già avviene in un campeggio, in un hotel. Quindi non è semplicemente un'applicazione di qualcosa che non è mai stato reso effettivo. Certo. Allora, 800 24 00 24, il numero verde per i nostri ascoltatori. Adesso vediamo se riusciamo a pescare la testimonianza di questo Jacob da Mantova, rumeno, un ufficiale meccanico su nave, che voleva raccontarci appunto come ha sviluppato la sua professionalità in questo settore. Patrizio al 349 238 6666 ci racconta di tre porti turistici nuovi in Toscana. Cosa significano allora? Non so se l'ingegner Pagani conosce questo territorio o meno. No, lasciamo stare. Ma, un po' la. Diciamo sì. Che l'Italia, per fortuna, negli ultimi anni ha sviluppato molte nuove strutture turistiche, però il problema, come dicevo prima, adesso dobbiamo riempirle, dobbiamo di nuovo attrarre tutto il turismo nautico, non solo dal Mediterraneo, ma dal mondo. La nostra è una nazione invidiata da tutti i diportisti, però le campagne appunto fiscali che abbiamo visto che hanno dato grandi danni, hanno allontanato i turisti, noi dobbiamo puntare sul turismo nautico. L'Italia ha 8.000 km di costa, nessun altro ha le coste con le condizioni meteo marine e la bellezza delle coste che abbiamo noi, quindi cerchiamo di valorizzare questo. Se le dessero carta bianca e le dicessero: ingegner Pagani, mi faccio un progettino per far tornare il turismo nei porti italiani, lei che direbbe? Beh, intanto facciamo una buona promozione. Oggi la promozione è delegata, diciamo, alla volontà dei singoli. Cerchiamo di fare un progetto per l'Italia di promozione del turismo nautico. Quando si parla di turismo in Italia, anche se andiamo sul portale del turismo italiano, non esiste il turismo nautico. E perché? In altre nazioni in Europa il turismo nautico è visto come una delle più grandi risorse che ci sono, e parliamo del nord Europa, del mare del nord, dove le coste sono, insomma, non hanno niente a che vedere con le nostre. Perché i nostri diportisti devono andare a veleggiare in Croazia, in Grecia o altrove? Abbiamo le coste più belle del mondo, sfruttiamole, valorizziamole e impariamo magari, questo sì, magari anche dai nostri vicini francesi, ad accogliere meglio il diportista. Ottimo, 800 24 00 24, avevo evocato Jacob, come lo devo chiamare, da Mantova, buongiorno. Buongiorno, Jacob. Sì, Jacob, eccoci qua. Ci racconti un po' la sua storia, Jacob. Allora, io ho lavorato, sono rumeno. Sì. Ho lavorato in navigazione rumena per 5 anni come ufficiale meccanico, dopodiché ho fatto altri 11 anni come direttore di macchina. Arrivato in 2000 qui in Italia, ho lavorato per un anno per sistemare una nave, dopodiché mi hanno detto che i miei titoli di studi non sono mica riconosciuti in Italia. Perciò sono stato obbligato a cambiare il mio mestiere, faccio anche oggi camionista. Ah, ecco, allora, quindi voleva raccontarci di una storia che non è finita tanto bene, per la verità, Jacob. Sì, perché poi sono andato in motorizzazione. In motorizzazione l'ha detto, mi ha tirato fuori una legge da 1928 che diceva che non possono essere iscritti nell'albo professionale le persone maggiorenne di 18 anni. Per essere iscritti nell'albo professionale dovrai avere 18 anni, persone italiane che hanno compiuto, diciamo, 18 anni. Per me la legge diceva soltanto che dovresti essere una persona maggiorenne, non che essere italiano. Oggi che ho anche la cittadinanza italiana, vorrei sapere. Allora, non so se l'ingegner Pagani si riesce addirittura a cimentare questa mattina sugli step che bisogna seguire appunto per poter fare una professione di questo tipo in Italia. Ma effettivamente appunto l'equiparazione dei titoli è uno dei grandi temi che abbiamo attualmente in discussione sui tavoli ministeriali. Immagino che anche il fatto che la Romania sia entrata da poco nell'Unione Europea possa avere anche un po' questo inciso, diciamo, nelle disavventure. Comunque, dell'ascoltatore, effettivamente è uno dei temi che deve essere uno dei tanti temi che si stanno accumulando sui tavoli del Ministero, e invece, che senta, andranno discussi e risolti. L'ufficio studi di Ucina di che cosa si occupa? Che cosa studia esattamente? Ma l'ufficio studi si occupa essenzialmente di statistiche di settore. Ogni anno produciamo un rapporto molto dettagliato sull'andamento dell'industria nautica, poi si occupa di tutta la parte di aggiornamento tecnico delle norme della nautica per costruire le barche e per usarle. Infine ci occupiamo di tutti i rapporti internazionali con i nostri colleghi in giro per il mondo. Abbiamo delle riunioni periodiche in cui ci scambiamo le idee, ci scambiamo i problemi e cerchiamo di risolvere, insomma, visto che le barche navigano nei mari di tutto il mondo, cerchiamo di rendere più facile l'accesso a tutti. Riunioni in mezzo al mare? Dove vi trovate? No, purtroppo succede però, raramente. Però di potrebbe solito essere un'idea in belle città invece di mare, sì. Vede. Cuore e denari. Ogni volta che vedo il mare provo qualcosa di strano. Non so, come un senso di... Ma... Sarà lo iodio. No, non è che lo odio. Siamo, tu ridi, eh? Siamo al Salone Nautico a Genova, si respira una bella aria. A proposito di aria, secondo voi, se io e Deborah, finita la trasmissione, prima di prendere il treno per tornare a Milano in redazione, ci facessimo un giretto, una bella passeggiata, andiamo a Nervi lungo il mare, facciamo scorta di iodio, siamo al mare, basterà? Chiamateci e soprattutto diteci la vostra, perché oggi protagonista della seconda parte della trasmissione sarà proprio lo iodio, un micronutriente di cui va ghiotta la tiroide, possiamo dire che è la sua benzina ed è assolutamente sconsigliato andare in riserva. Allora 800 24 00 24, se volete parlare di iodio e quindi di tiroide, avere tutti i consigli pratici dei nostri esperti. Ma mi raccomando, ricordatevi la domanda. Allora, respirando aria di mare, Deborah e io possiamo fare scorta di iodio oppure è meglio che ripieghiamo su un bel piatto di trofi al pesto con patate e fagiolini? 800 24 00 24. Di mare, di settore nautico, un settore della nostra industria importante anche dal punto di vista occupazionale. Allora state cercando, vorreste cercare un'occupazione in questo ambito, condividete con noi le vostre idee, noi le commenteremo con l'ingegner Pagani dell'ufficio studi di Ucina Confindustria Nautica. Intanto qualche messaggio che arriva, ingegnere, per la verità stanno dandoci delle indicazioni anche su temi abbastanza specifici che io personalmente non conosco, però Maurizio ci racconta che per esempio esiste una norma che riguarda il visus minimo per le patenti per il diporto. Lei annuisce, quindi sa di che cosa stiamo parlando, che cosa vuol dire questa patente? Che, appunto, per mantenere la patente nautica è necessario un minimo, adesso non entriamo nei dettagli, comunque bisogna vedere di più che non per avere una patente per gli autoveicoli. Hai visto, Nicoletta, avremmo potuto anche, insieme allo iodio, anche affrontare il tema della vista. Il tema della vista, devo dire che ci era venuto in mente, se ricordi, però ce lo teniamo un po' caldo perché tra poco ci sarà la giornata mondiale della vista, che proprio si occuperà di vista e guida, non nel mare, ma comunque apriremo anche una parentesi. Potrebbe su questo, vede? Sì. Un altro ascoltatore osserva invece che si considera il diportista come un riccone evasore, ma ci definisce nel dettaglio precisamente questa professione? Chi è il diportista? Il diportista è chiunque abbia una grande passione per il mare. Io sono una marchigiana nata sul Conero, una grande passione, ma non sono una diportista, sono una diportista anch'io. È mai andata anche solo su una barchetta in canoa? Sì, certo. Ecco, allora lei è una diportista. Quindi bastano veramente dei requisiti non minimi. Non è necessario possedere una barca, ma basta avere la passione. Ma hai capito quante cose si imparano, appunto, anche venendo al Salone Nautico. Quindi a tutti i diportisti 800 24 00 24, raccontateci la vostra passione per il mare. Quindi l'importante è stare fermi sotto l'ombrellone, muoversi, no? Andare... Si può anche fare quello, però basta anche solo sotto l'ombrellone. Allora viene sono voglia anch'io. Di... Eccoci qua, Luigi, dalla provincia di Latina, sentiamo un po' che situazione ci sottopone. Ingegner Pagani, stamattina la mettiamo veramente alla prova con ogni situazione territoriale. Luigi, buongiorno. Sì, buongiorno. Sono Luigi, chiamo da San Baudio, in provincia di Latina. A Sabaudia abbiamo una situazione molto particolare per quanto riguarda i diportisti, siamo molto penalizzati. Forse l'unico comune in Europa dove esiste un lago privato e non c'è un punto d'attracco per i diportisti su tutta la costa, tant'è che siamo costretti ad appoggiarci nei comuni vicini tipo Terracina, San Felice o quant'altro. passione per il mare, insomma... noi ne abbiamo tanta, solo che non ci danno la possibilità di poter come dire, potervi godere anche le vostre coste, passione, insomma. Luigi, grazie, che ha preso insomma a cuore denari per lanciare anche questo messaggio a questo territorio. Ma da chi dipende, tra l'altro, il fatto di non poter attraccare magari in questo... Ma il problema non è tanto l'attracco quanto l'accesso, nel senso che nell'ambito di sviluppo del turismo nautico di cui parlavo prima è necessario anche pensare ad adeguare le strutture alle necessità dei diportisti. Quindi non è soltanto costruire nuovi porti turistici, visto che ne abbiamo già anche in quantità notevole in determinate aree territoriali delle nostre coste, però a volte manca anche soltanto per la piccola nautica l'accesso, quindi degli scivoli per le barche che precludono la possibilità di andare, di mettere in acqua la propria piccola imbarcazione. Insomma, abbiamo appreso anche questo. Intanto ritornerei però, ingegner Pagani, al tema dal quale siamo partiti, un po' le prospettive occupazionali per chi cerca lavoro in questo momento e magari non ha accarezzato l'idea di avvicinarsi a questo settore, che invece qualche occasione la offre. Bisogna avere per forza la passione per il mare per cimentarsi in un'occupazione. Io credo che sia abbastanza necessaria, però io, insomma, è difficile che una persona che lavora nell'ambito nautico, comunque marittimo, non ce l'abbia. Però la passione può anche venire, ma ve lo dico anche così per esperienza personale: non è necessario essere nati in una città di mare, vedere tutti i giorni le onde così. Io sono torinese e mi sono trasferito qua a Genova proprio per questa passione che avevo e che, insomma, alla fine è cresciuta e ho messo nella professione. Certo. Quindi l'occupazione nel nostro settore è ovvio che, come tutti i settori in crisi, come dicevo prima, abbiamo perso circa la metà degli addetti diretti negli ultimi 5 anni. È un momento un po' complesso, però proprio per un giovane che magari vuole avvicinarsi oggi a una professione del mare, vuole iscriversi come scuola secondaria a un istituto tecnico, è il momento, che lo faccia, lei dice. Perché insomma è da 5 anni che siamo in declino, quest'anno ci sono le prime avvisaglie di una ripresa del settore. E quindi, insomma, tempo che si diplomi e poi avrà grandi possibilità. Esatto, magari può cavalcare anche un trend, possibilmente, speriamo, di ripresa complessiva del paese. So che come Confindustria Nautica, come Eucina, diciamo come organizzazione di categoria, aderite anche a tante iniziative legate all'università, alla scuola, e qua in questo contesto del Salone Nautico ne vengono anche presentate, no, ingegner Pagani? Sì, in particolare una che che inizierà tra circa un mese è quello dell'Executive Master in Marina Management della LUIS. Come possiamo vedere, è anche una persona che non era inizialmente predisposta a una professione marina, chiamiamola così, anche in un percorso di post laurea può avvicinarsi. Come dicevamo, puntiamo sul turismo nautico, puntiamo anche sui porti turistici, e quindi sarà necessario nel prossimo futuro anche avere tante persone preparate nella gestione di questi porti turistici, che sono dei piccoli mondi, dei microcosmi con necessità molto specifiche, e quindi bisogna conoscere molto bene come affrontare queste esigenze. Ingegnere, ma per le donne quali opportunità? Sembra un settore molto maschile. Lo sembra, è chiaro che non abbastanza. Troveremo forse mai in un cantiere nautico o navale una donna addetta alla laminazione o alla saldatura. Certo. Però in realtà è un settore in cui le donne sono molto presenti. In quali ruoli? Ma in tutti i ruoli, dal marketing al... prima parlavamo di equipaggi, anche negli equipaggi ci sono tantissime donne. Quindi c'è anche la giovanotta di coperta? Sì, è possibile. D'altronde io sono una diportista, per cui perché no? E certo, no, tra l'altro stavo leggendo sempre probabilmente qualche statistica che ha elaborato lei nel suo ufficio studio, ingegner Pagani, che dal punto di vista occupazionale, appunto, i lavoratori impiegati nell'economia del mare sono circa 800.000, ma mi sembra anche una cifra addirittura un po' per difetto. Questa è l'economia del mare, quindi include anche altri settori paralleli al nostro, come la pesca, come la cantieristica commerciale. Il nostro è un settore magari di nicchia, in quanto occupa direttamente nell'industria 20.000 persone, 90.000 se aggiungiamo il turismo nautico, e poi c'è tutto l'indotto a monte, quindi quello della fornitura. natura e di tutti i servizi, che quindi aumenta ulteriormente il numero di occupati. E gli occupati si distribuiscono, leggevo, in tutti i settori, con una forte incidenza delle attività ricettive e della ristorazione, che spiegano più di un terzo dell'occupazione complessiva, appunto, dell'economia del mare. Per cui, ecco, qua, se vogliamo proprio anche incanalare le donne, magari anche in questi ambiti, no? Certo. Possono un po'. Se poi invece vogliamo analizzare territorialmente dov'è che ci sono i maggiori occupati nel nostro settore nautico, beh, abbiamo delle regioni storicamente legate alla nautica, quindi Liguria, Emilia Romagna, Toscana, ma poi subito dopo abbiamo delle regioni come Piemonte e Lombardia che magari uno non si aspetta. No. In particolare la Lombardia è la regione con il maggior numero di addetti in tutta quella che è l'industria degli equipaggiamenti e degli accessori nautici. Perfetto. Quindi anche lì, senza bisogno di vivere sul mare. Anche là dove non c'è il mare, insomma. Anche chi ha il mal di mare può fare un qualche lavoro legato al mare. Ma senti un po', insomma. Ettore dalla provincia di Verona, l'ultima telefonata per appunto questa parte del nostro programma. Ettore, benvenuto. Buongiorno, grazie di avermi telefonato. Volevo solo chiedere all'ingegnere se è possibile fare una legge, qualcosa che aiuti i diportisti e non mandarli via. Io vivo sul lago di Garda, no? Non c'è più nessuno che va fuori in barca. Sono tutti quanti andati in Jugoslavia, vanno tutti via. E tutte le marine che hanno fatto sul lago sono vuote. Quindi mandano via la gente. Per tanti motivi, un po' appunto anche per la tassazione ballerina, un po' anche per tutte le problematiche legate al redditometro, ingegner Pagani. Sì, adesso per fortuna siamo riusciti, grazie anche a un approccio più amico da parte del governo Fisco. In carica e dell'Agenzia delle Entrate. Hanno capito che non siamo il male, come dire. Insomma, siamo un settore che dà lavoro a più di 100.000 famiglie, è un settore che è il primo al mondo per quanto riguarda la costruzione di super yacht, e per il turismo nautico siamo la destinazione principale di tutto il mondo. Quindi perché dobbiamo essere penalizzati? Per fortuna nell'ultimo anno siamo riusciti a ottenere qualche significativa provvedimento in aiuto del diportista, ad esempio i controlli che, insomma, in mare ci sono vari corpi delle forze che possono fare controlli. Adesso abbiamo un bollino blu che si può mettere sulla barca, e che significa che la barca è già stata controllata una volta e che quindi può navigare senza aver bisogno di essere controllata ulteriormente. Benissimo. E la cosa principale è che questi controlli si possono anche richiedere direttamente da parte del diportista, senza bisogno che avvengano in mare, ma magari in porto, senza quindi disturbare. È stata una piccola semplificazione, diciamo, in questo. Ottimo, ingegner Pagani, grazie per tutte le informazioni che ci ha dato questa mattina, ha contribuito a metterci al corrente appunto dell'andamento di un settore che effettivamente noi magari a cuore denari non abbiamo frequentemente, come dire, toccato e affrontato, ma insomma abbiamo dato informazioni utili, speriamo, ai nostri ascoltatori. C'era Alessandro da Roma che voleva raccontarci che organizza, non so bene come, dei charter con cuochi a bordo che impartiscono lezioni di cucina. Ecco, quindi lì andiamo noi. Molto bene, perché adesso abbiamo scoperto in privato che siamo diportiste. Purtroppo anche diportiste, ma guarda quante qualità. Grazie ingegner Pagani. Grazie a voi e vi aspettiamo al salone. Cuore e denari. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. E se invece che sdraiarvi volete venire a trovarci, noi siamo al Salone Nautico di Genova, allo stand S. Sì, ormai hai deciso di così pronunciarlo tu sin dall'inizio. Mi piace, faccio fare un po' di ginnastica. S47. E noi parliamo di iodio, ve l'avevamo anticipato, e abbiamo mandato un messaggio. Iodio vietato andare in riserve. Questa è un po' la raccomandazione degli esperti della Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, che lancia Una bella campagna che insieme a Deborah siamo lieti di lanciare anche noi qua proprio da Genova, dal Salone Nautico, si chiama Progetto Italiano contro la carenza di iodio in pediatria, e qui in studio con noi abbiamo il piacere di avere un esperto, il dottor Roberto Gastaldi, endocrinologo pediatra all'Istituto Gaslini di Genova. Buongiorno dottore, grazie. Buongiorno a voi, grazie. Benvenuto. Grazie dell'invito. Nei nostri studi all'aperto, guardi grazie. Qua. Plein air. Dottore, lo iodio è un elemento diffuso nell'ambiente, no? In diverse forme, praticamente ovunque, nelle rocce, nel suolo, nei mari, negli oceani. Lo iodio che è presente nel mare si accumula nelle alghe, nei pesci, nei crostacei, mentre quello che è presente nel terreno viene risucchiato, assorbito dalle piante, quindi tutto sommato non dovrebbe essere molto difficile procurarcelo, dato che il nostro organismo non è in grado di produrlo da solo. Basterebbe quindi assumere una dieta, come dite sempre voi medici, varia ed equilibrata. No? E noi, e questo ci metterebbe al riparo, ci garantirebbe di assumerne la giusta quantità. Ma qualcosa non torna, dottore, se ancora oggi una parte rilevante della popolazione è caratterizzata da una carenza lieve o moderata di questo micronutriente. I dati raccolti negli ultimi 3 anni hanno mostrato che solo in 3 regioni, tra cui la Liguria, è stato raggiunto un adeguato apporto di iodio. Ma dottore, come mai? Che succede? È correttissimo quello che ha detto. Pensi che al giorno d'oggi quasi il 30% della popolazione mondiale è esposta a rischio di carenza iodica, e in Italia più del 10% della popolazione soffre di gozzo. Quindi, come diceva giustamente lei, qualcosa non torna. Qualcosa non torna nonostante noi suggeriamo la dieta variata, la dieta equilibrata, ma purtroppo la dieta deve essere anche un po' integrata da certi micronutrienti, fra questi lo iodio. Lo iodio giustamente ricordava che noi, il nostro organismo non lo sintetizza, non lo produce, quindi dobbiamo prenderlo dall'esterno. Purtroppo intorno allo iodio, che è, ricordo, e l'aveva molto correttamente introdotta all'inizio della trasmissione, la benzina della tiroide. Senza lo iodio la tiroide non funziona, e se non funziona la tiroide sono dolori a tutta l'età, dall'embrione all'anziano. Quindi diciamo perché questa ghiandolina, ricordiamo, a forma di farfalla, che possiamo individuare all'altezza del bottone della camicia, no? Esatto, alla regione mediana del collo. Insomma, noi in Italia abbiamo una legge dal 92 che impone lo screening neonatale per l'ipotiroidismo congenito, quindi per il riconoscimento precoce di una grave malattia della tiroide, dove vedremo poi magari entra a pieno titolo anche lo iodio, e grazie a questo screening abbiamo praticamente eliminato una malattia che si chiamava cretinismo endemico. Sì. Credo che non si debbano aggiungere altre parole, però purtroppo chiaro. In molte altre parti del mondo dove questo screening magari non avviene ancora, e dove c'è carenza iodica c'è ancora questa patologia. 800 24 0024, abbiamo degli ascoltatori che stanno aspettando di mettersi in contatto con noi. Abbiamo... Esempio, sì, c'è Cristiano da Latina che ha raccolto la provocazione che hai lanciato all'inizio. Sì, io ho detto passeggiata lungo mare di nervi o un bel piatto di trofie con patate e fagiolini. Per acquisire... Cristiano, buongiorno, ci chiama da Latina. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuto. Sì. Benvenuto, grazie. Benvenuta lei. Mi dica, ci dica Cristiano. Che io sappia, io ho avuto la fortuna quando ero adolescente di conoscere una persona più grande di me che era una ricercatrice in questo campo, e mi ha fatto capire, mi ha spiegato che lo iodio si assimila dagli ortaggi, dalla frutta, dalla verdura che cresce vicino al mare praticamente. Io poi, tra l'altro, essendo nato nel Golfo di Gaeta, ho avuto la fortuna di mangiare e di alimentarmi con prodotti siano ricchi di iodio. E tra l'altro mi ha anche spiegato che basta anche questa possibilità, basta che consumi questo sale che adesso è diffuso in tutti, anche nei supermercati, che è iodato, appositamente già iodato. Vedi? Allora, dottor, quindi caro caro Cristiano, lei ci suggerisce di magari fare una passeggiata lungo a Nervi, ci sono la passeggiata lungo mare, che è anche lì, romantica, va bene. Una spruzzatina però, almeno ne prendiamo, no? Però, dottore, a parte che Cristiano sa già tutto, potrebbe essere testimonial della vostra campagna. Lo vedo molto esperto. Ahimè, la passeggiata lungo il mare non serve a niente, o serve a molto poco, perché lo iodio di cui il nostro organismo ha bisogno lo dobbiamo assumere con gli alimenti. Esistono alcuni alimenti che sono più ricchi di iodio, alcuni li ricordava il nostro gentile ascoltatore, in particolare fra le verdure gli spinaci sono molto ricchi di iodio, ma soprattutto pesce, crostacei, molluschi e anche il latte. Il latte è una buona fonte di iodio. Il discorso che ha introdotto il nostro ascoltatore sul sale iodato sì, è un discorso molto importante. In Italia c'è una legge dal 2005 che imporrebbe di vendere solo sale iodato. Cuore e denari. Eccoci qua, siamo al Salone Nautico di Genova e oggi parliamo di iodio, un micronutriente importantissimo per la nostra salute, in particolare per quella della nostra tiroide. Senza l'adeguata quantità di iodio questa ghiandola va in panna, non funziona bene. Noi sappiamo che le patologie tiroidee sono in aumento e ne stiamo parlando oggi con il nostro esperto, il dottor Roberto Castaldi, endocrinologo pediatra all'Istituto Gaslini di Genova, che è venuto a trovarci anche e soprattutto per parlare di una campagna molto interessante lanciata dalla Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, che si chiama Progetto Italiano contro la carenza di iodio. Dottor Castaldi, l'assunzione adeguata di iodio potrebbe essere quindi considerata una forma di prevenzione per le patologie tiroidee che sono molto diffuse in questi ultimi anni, forse perché la controlliamo di più la funzionalità di questa ghiandola, forse perché, come dicono in tanti, qualcosa è cambiato. Ma sì, effettivamente le patologie tiroidee sono in costante aumento a tutte le età. Lo iodio aiuta, la supplementazione di iodio aiuta il lavoro della tiroide, quindi è una prevenzione sì, per le patologie tiroidee. Ne basta anche poco, perché il fabbisogno di iodio giornaliero è sui 150 microgrammi al giorno, quindi ne basta veramente poco. L'integrazione col sale iodato, del quale si parlava prima, è sicuramente un'ottima scelta l'uso del sale iodato. Chiaramente non bisogna eccedere, perché il sale è sale, quindi l'ipertensione, sappiamo i rapporti col sale. Se però, no, vi mettete in contrasto con i cardiologi, poi ve la vedete voi. La dobbiamo vedere noi. Però consideri che in base all'età, dai 3 ai 5 grammi di sale iodato al giorno sono sufficienti, insieme ovviamente a un'alimentazione variata, soprattutto comprendente quei cibi ricchi di iodio, come possono essere i pesci di acqua di mare, i crostacei, le alghe anche. Esatto, le alghe ne contengono un'esagerazione. Lo scrivono molti ascoltatori. Vedi. Il problema delle alghe può essere legato ad un sovradosaggio, perché alcuni farmaci cosmetici contengono alghe che accumulano lo iodio in quantità veramente importante, quindi concentrano proprio lo iodio, ecco. Però anche il latte, come si diceva prima, noi siamo pediatri, quindi il latte è sicuramente un ottimo veicolo di iodio. E anche gli sospettabili spinaci. E gli forse sospettabili contengono spinaci. Più iodio che ferro. Ma insomma, direi che contengono entrambe. Gli spinaci sono un'ottima verdura, un'ottima fonte di micronutrienti, di ferro, di iodio, ma anche di altre verdure. Per esempio il pesce di acqua dolce contiene meno iodio rispetto al pesce di acqua di mare, ovviamente. Prima il dottore ci ha dato le percentuali del fabbisogno, no? Sì. Eccola lì la donna di denari. Esatto, ma questo fabbisogno è lo stesso per tutta la durata della nostra vita o cambia in funzione delle nostre trasformazioni anche fisiche? Assolutamente. La ringrazio per la domanda, perché questo è molto importante da sottolineare. il fabbisogno cambia in base all'età, quindi nell'età neonatale il fabbisogno sarà molto basso, man mano che si cresce il fabbisogno aumenta. Un adolescente ha un fabbisogno di iodio sui 120 microgrammi al giorno, quindi molto vicino a quello dell'adulto. Però c'è un'età che è poi molto a rischio, che è l'età della donna fertile, della donna in gravidanza. La donna in gravidanza ha un fabbisogno di iodio di 250 microgrammi al giorno, quindi quasi il doppio rispetto al... quindi spesso nella donna in gravidanza si suggerisce, oltre tutto ciò che abbiamo detto, il sale iodato, gli alimenti ricchi di iodio, anche gli integratori a base di iodio, che senza esagerare però coprono questo fabbisogno, anche perché è molto importante sottolineare che la formazione della tiroide nell'embrione è molto precoce, però c'è un periodo in cui tutto dipende dal funzionamento della tiroide della mamma, quindi messaggio per i ginecologi, che conoscono benissimo, di controllare la funzionalità tiroidea della mamma e il livello di iodio della mamma, soprattutto nelle prime fasi della gravidanza. Anzi, forse sarebbe addirittura consigliabile prima di programmare una gravidanza. Quindi una donna in età fertile dovrebbe controllare... giusto? Prima, cioè, e che desidera quindi avere una gravidanza, funzionalità tiroidea e livello di iodio. Andiamo alle nostre telefonate all'800 24 00 24. Iodio, per saperne di più, dove si trova? Perché nonostante una dieta varia ed equilibrata qualcosa sfugge? Forse sbagliamo qualcosa anche nei metodi di cottura, magari non utilizziamo il sale iodato, esatto. Pensando, c'è chi addirittura pensa che mettendo nell'acqua di cottura appunto il sale iodato l'iodio si sciolga, ecco, come scompaia, non so, forse hanno ragione, finito. Raccontatecelo voi e intanto ne chiederemo naturalmente i consigli del dottor Gastaldi. Ma dove andiamo? A Pisa o a Catania? Allora, visto che abbiamo toccato il tema bambini, abbiamo il nostro pediatra stamattina, direi di sentire Giuseppina da Pisa. Magnifico, Giuseppina, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, senta, io ho allevato 3 bambini e non mi ricordo che un pochino si sente di che giocano ancora, in sottofondo, sono loro? No, questo è un bambino che comincio a guardare adesso che ho 63 anni e è un disturbo che non arriva. Ora è un bambino di una mia figlia. E sì, questo bambino nella dieta non ha assolutamente, nelle pappine, nemmeno un grammo di sale. Anzi, viene come demonizzato l'uso del sale nelle prime pappine. Mi chiedevo cosa c'è, a cosa è legato il fondamento di questo nuovo orientamento. E poi le domande qui sarebbero diventate 2, perché ho una figlia che dovrà fare un bambino prossimamente e ha problemi di... quali sono i rischi che può fare il mio futuro nipote? Allora, ok, vabbè, la voce è andata male, un po' male, ma Giuseppina, dottor Gastaldi chiedeva questa dieta senza sale per il bambino, ha delle giustificazioni e poi una futura mamma in attesa, allora, con problemi di tiroide. Per riguardo al bambino, è vero che nel primo anno di vita è sconsigliabile aggiungere il sale, proprio per una profilassi futura di malattie cardiovascolari, ipertensione e quant'altro. Però è anche vero che il latte materno copre a una adeguata quantità di iodio e i lattanti che assumono latte artificiali, le cosiddette formule, ricordiamo che le formule per normativa europea sono addizionate di micronutrienti e fra questi lo iodio, quindi nel primo anno l'alimentazione lattea copre, sì, questa eventuale carenza. Diciamo come dopo il primo anno una piccolissima quantità di sale iodato può essere somministrata nelle prime pappe. Ovviamente si deve andare molto col buon senso, no? Certo. Se il poco fa bene, non è vero che il tanto faccia meglio, ecco, anzi assolutamente. Quindi dopo il primo anno un pizzichino di sale iodato ne basta veramente, abbiamo detto che il fabbisogno varia dai 3 ai 5 grammi al giorno. giorno, 2 grammi al giorno, che sono un pizzichino nella pappa del bambino dopo l'anno di vita, può essere ammesso. Lo iodio, sì, i metodi di cottura, parliamo, mi scusi, prima della metodi di cottura rispondiamo alla seconda domanda, riguarda la figlia della signora che è in gravidanza ma ha un problema tiroideo. Ma dunque direi che innanzitutto, se la signora ha un problema tiroideo, sarà sicuramente seguita da un endocrinologo e da un ginecologo che forniranno i consigli adeguati per la migliore riuscita della gravidanza. Sicuramente avranno consigliato alla signora di fare una funzionalità tiroidea, quindi un semplice prelievo di sangue per il dosaggio degli ormoni tiroidei, e può essere utilizzata anche un esame molto facile, molto poco costoso, che è la ioduria, è poco richiesto, ahimè, che è la ioduria, che ci dà una misura del livello di iodio nel nostro organismo. Quindi se c'è iodosufficienza si vede che è un esame delle urine. È un esame delle urine, quindi nemmeno invasivo, è un esame poco costoso. Ma lo consigliamo alle donne che in età fertile, quindi magari che sono desiderose di avere un bambino, o secondo lei è un esame che dovrebbe essere inserito di routine negli esami di controllo? Pensando agli adolescenti, sto pensando agli adulti in generale, dottor Gastaldi. Dunque sì, è un esame che misteriosamente non piace. È poco richiesto, però ci sono delle fasce di età, quelle che ha nominato lei e in primis la signora che vuole intraprendere una gravidanza, a mio parere una ioduria dovrebbe assolutamente farla. Intanto un esame assolutamente non invasivo, basta un po' di urina, no? Assolutamente, un campione d'urina. Allora adesso andiamo a Catania, dove invece ci aspetta Adele all'800 24 00 24. Adele, buongiorno. Buongiorno. Benvenuta. Se la volta bene, se è vero, sono attendibili alcuni studi che direbbero, secondo i quali chi ha usato a lungo del sale iodato può sviluppare una tiroidite autoimmune. E poi se l'oligo elemento iodio può invece essere utile per regolarizzare il tutto. Dottor Gastaldi? Allora, qua la invita a nozze e abbiamo modo anche di fare un pochino di informazione più precisa, direi, no? Che... Dunque, diciamo alla signora che innanzitutto la tiroidite cosiddetta, la tiroidite autoimmune, la tiroidite linfocitaria è una patologia che io mi occupo di bambini e adolescenti, noi vediamo in costante aumento, forse è vero che l'andiamo più a cercare perché facciamo degli esami più mirati e forse diamo più importanza anche a dei sintomi sfumati. Molto spesso i nostri pazienti ci dicono che loro non usano sale iodato proprio perché hanno una patologia tiroidea. Diciamo come l'unica controindicazione all'utilizzo del sale iodato ad una dieta troppo ricca di iodio può essere l'ipertiroidismo in fase acuta, ma sicuramente l'ipotiroidismo è un'indicazione quando la tiroide funziona poco per prevenire l'ipotiroidismo. La dieta ricca di iodio e sale iodato è sicuramente una profilassi, e siccome la tiroidite nella maggior parte dei casi tende ad evolvere, a determinare un ipotiroidismo, a maggior ragione il sale iodato deve essere indicato. Ovviamente non bisogna abusarne, come per tutte le cose. 800 24 00 24, dottor Gastaldi, nella cottura lo iodio degli alimenti e anche del sale tende un po' a perdersi, è un po' volubile, no? Un po' come le vitamine, che in cottura sappiamo vengono in qualche modo, il patrimonio vitaminico viene in parte distrutto. Quali sono le indicazioni che questa campagna, che è una campagna che vuole proprio dare delle informazioni un po' alla cuore dei nari, debole, concrete, pratiche, per accompagnare le persone nella vita di tutti i giorni, nella scelta degli alimenti, come cucinarli, come orientarsi, quali sono le indicazioni? E dunque è vero che il sale iodato con la cottura perde, diciamo, efficacia. Con la bollitura il 60% quasi del sale iodato evapora, ma anche con la frittura, con le cotture prolungate, il sale iodato tende a perdere la sua efficacia, per cui l'indicazione è quella di prima, poco sale, iodato e possibilmente a crudo. Un po' come l'olio, no? Un po' come l'olio. E comunque esiste in commercio un sale iodato, il cosiddetto sale iodato protetto, che limita fortemente questa problematica della evaporazione con la bollitura o con la dispersione nelle cotture. Ecco. Quindi non nell'acqua della pasta, ma nell'insalata. Magari nell'insalata, per essere brevi. Allora, sì, abbiamo sentito prima che ci hanno chiamato prevalentemente donne, non è un caso, perché tu mi insegni che se qualche patologia della tiroide deve arrivare, preferisce noi, mi sbaglio? È una buongustaia. Esatto. E invece adesso abbiamo il nostro ragazzo che ci chiama, credo almeno, Andrea, dalla provincia di Roma. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno al professor Castaldi. Buongiorno. Buongiorno, chi dica Andrea? Il nostro allora, giovanotto di coperta di oggi. La mia domanda è forse anche un po' banale, ma mi chiedevo. Ci piacciono molto. Il fatto era nel rapporto, diciamo, tra lo iodio, il mare, eccetera, eccetera. Il fatto di aver vissuto al mare per 30 anni della mia vita e poi essermi trasferito lontano dal mare può aver influito in qualche modo in un cambiamento del metabolismo, nel senso che poi mi sono ritrovato sovrappeso, con difficoltà in qualche modo a recuperare il peso forma. Questa era la domanda. Andrea, quanti anni ha? Questa è una curiosità mia, no? Perché 50, sai 50. Che, no, perché sai che quello che è successo a me dai 40 in avanti succede di tutto nel fisico. No, per questo dico la domanda. Me ne rendo conto anch'io, però magari si cerca di dare carina. La colpa a qualcosa, no? Bravo, vediamo se possiamo dare la colpa dal la fatto che si è allontanato dal mare. Ma direi che voglio vedere come se la gioca dottor Castaldi, eh? Non penso, non so se questo le possa far piacere o meno, ma non credo che aver abbandonato il mare, per quanto si diceva prima, possa avere in qualche modo alterato così il suo metabolismo per determinare gli eventuali i problemi che lei segnalava, anche perché appunto il discorso del vado sul mare e respiro lo iodio, ahimè, non funziona. È probabile però che chiudo il nostro amico abbia cambiato un po' stile di vita, magari quando viveva al mare era più attivo, si faceva un po' di passeggiate eccetera, per cui invitiamo il nostro amico magari a aumentare un po' l'attività fisica. In 30 secondi possiamo dare un solo consiglio? Citare uno studio che è stato fatto proprio in regione Liguria: il consumo di sale iodato è maggiore nell'entroterra rispetto alla costa, quindi possiamo invitare il nostro sentire il suo endocrinologo se dovessero esserci problemi e utilizzare sicuramente sale. Poco sale ma iodato. Grazie al dottor Castaldi per essere stato con noi e salutiamo tutta la squadra che ci ha aiutato in questa diretta. Allora vado da Michele Previato, Marco Lombardo, Davide Cioce, Elisa Piras, ringraziamo anche noi che siamo venute qua. Ma domani torniamo a Milano, anzi oggi dopo la passeggiata, dopo un piatto di spinaci. Buona giornata a tutti. Buona giornata. E denari.